24. La storia. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono più di 100.000 i decessi che ogni anno si registrano per il contatto con l'amianto. Nonostante questo, al mondo ci sono ancora 125 milioni di persone che lavorano con questo materiale. In Italia la parola amianto è legata al nome Eternit. Bagnoli, Broni, Rubiera, Reggio Emilia, Cavagnolo, Bari sono tutti luoghi accomunati da uno stesso tragico e fatale destino, la conta dei morti. Dal totale delle 3.000 vittime del disastro Eternit accertate in Italia, 1.800 sono abitanti di Casale Monferrato. Ed è da qui che oggi a Mix 24 vogliamo partire, dalla cittadina in provincia di Alessandria e da un processo che vede come imputati gli ultimi due proprietari delle multinazionali svizzere Eternit, il belga Louis Descartier, lo svizzero Stefan Schimmel-Daney. L'accusa è di disastro doloso ambientale e inosservanza volontaria delle norme di sicurezza. Il 13 febbraio del 2012 arriva la sentenza di primo grado che condanna a 16 anni i due imputati. Un anno dopo, il 3 giugno del 2013, la sentenza della Corte d'Appello di Torino inasprisce la pena. Arriva la condanna a 18 anni di carcere per lo svizzero rimasto unico imputato dopo la morte a maggio di Descartier. E solo pochi giorni fa l'ultimo atto. La Cassazione annulla, dichiarando prescritto il reato, la sentenza di condanna per il magnate svizzero Schimmel-Daney, cancellando in sostanza anche la possibilità per i familiari delle vittime e per le comunità locali di ottenere risarcimento. Ma ripartiamo da quel febbraio 2012. In nome del popolo italiano, il Tribunale di Torino dichiara Descartier, De Marchen, Jean-Louis e Schimmel-Daney Stefan colpevoli dei reati loro contestati al capo A della rubrica. Li condanna alla pena di anni 16 di reclusione ciascuno. Dichiara non doversi procedere contro i predetti imputati in ordine ai reati loro ascritti al capo A della rubrica, limitatamente ai fatti commessi in Rubiera e in Napoli Bagnoli. Condanna gli imputati Descartier e Schimmel-Daney a risarcimento pari ad euro 30.000 a favore di ciascuna delle sottoelencate parti civili costituite. Gianolio Luca, congiunto di Bai Silvana. Prato Maria Assunta, congiunta di Ferrari. Lasotti Romana, congiunta di Pavesi Mario e di Pavesi Maria. Frassoni Rossana, congiunta di Frassoni. Quelli che abbiamo appena sentito sono solo alcuni dei nomi degli uomini e delle donne vittime dell'amianto per i quali è stata chiesta giustizia. Ma se oggi dell'amianto si discute nelle aule dei tribunali, c'è stato un periodo, non molti anni fa, in cui era considerato uno dei simboli del progresso, una nuova fibra che avrebbe portato benessere e ricchezza. Pronti, azione! Ecco la stanza! Una stanza piena di vita! Il pavimento! Per una stanza piena di vita! Vini l'amianto con tutto il fascino di un pavimento artigianale in blocchetti di pietra. Sono i favolosi anni 60. Negli Stati Uniti, ma anche nelle case italiane, entra un nuovo materiale da costruzione, moderno e flessibile, che dura per sempre. È l'asbesto, più noto come amianto dal greco amiantos, puro, immacolato, incorruttibile. Ha un bell'aspetto, come dei bioccoli di lana, biancastri, grigini, azzurrini e anche dei bei nomi nelle diverse varietà. Crisotilo, fibra d'oro, crocidolite, fiocco di lana. Il minerale più usato al mondo, un filamento sottile ma resistente, estratto da rocce millenarie, polvere di amianto grezzo che unito al cemento diventa cemento amianto, materia prima a bassissimo costo e comunemente chiamato Eternit. È nei pannelli delle pareti, nei soffitti, nei tubi che trasportano acqua, nei fili elettrici, nei rivestimenti, nelle canne fumarie e nelle famose coperture ondulate. Così Alessandro Marinaccio del Registro Nazionale dei Mesoteliomi INAIL, Roma. l'Italia è stato uno dei principali consumatori con quantità molto elevate, oltre le 100.000 tonnellate anno, sicuramente per tutti gli anni 80, quindi grandi quantità prodotte nazionalmente e anche quantità importanti importate da paesi come per esempio Sudafrica o Australia. Per molti anni nel nostro paese l'amianto è stato considerato un'autentica benedizione perché era un materiale che aveva ed ha ovviamente straordinarie qualità, li difende dalla umidità, dal rumore e dal fuoco soprattutto. E proprio le sue caratteristiche isolanti e di resistenza al fuoco fanno dell'amianto un materiale dai mille usi, dai sipari dei teatri alla coibentazione dei treni, navi e aerei, dai componenti dei freni delle auto alle tute ignifughe dei vigili del fuoco, un materiale dai mille usi. Mix 24, la storia. A Balangero, in una collina tozza e brulla, tutta scheggioni e sterpi, si affondava una ciclopica voragine conica, un cratere artificiale del diametro di 400 metri. C'era amianto dappertutto, come neve cinerina. Bentornati a Mix 24, erano le parole dello scrittore Primo Levi che nel Sistema Periodico descriveva Balangero come una voragine conica. Qui, a poco più di 100 km da Casale Monferrato, sorge lo stabilimento Eternit più grande del mondo. In Italia, a Balangero, a nord di Torino, quindi in Piemonte, è stata attiva per molti anni e fino sostanzialmente al bando del 1992 la più grande cava di amianto crisotilo, che è una delle varietà di amianto dell'Europa occidentale. Quindi l'Italia è stato un paese produttore in senso molto importante. Nell'immediato dopoguerra, quello stabilimento rappresenta per i giovani del posto la speranza di un lavoro sicuro. Così è per molte famiglie di Casale, quelle stesse famiglie che oggi contano i loro morti per l'amianto. Così è per Romana Blasotti, oggi presidente dell'Associazione delle Vittime dell'Amianto di Casale e donna simbolo di questa tragedia. E così è per suo marito Mario Pavesi. Romana e Mario Pavesi sono due giovani pieni di speranza quando appena ventenni si sposano. Presto arrivano un bambino, Ottavio, classe 1949, qualche anno dopo, nel 54, una bambina, Maria Rosa. Con una moglie e due figli, Mario Pavesi, operaio precario, deve trovare un posto sicuro. Spera in un'assunzione all'Eternit di Casale Monferrato, ma c'è la fila per entrare. È la maestra di suo figlio Ottavio a dargli una mano. Così nel 1956 Mario Pavesi entra in fabbrica. Lo stabilimento della Eternit era all'avanguardia, diciamo, per insomma, una paga più sicura. C'erano anche, naturalmente, era la possibilità di avere la colonia per i ragazzini. Qualche regalo a Natale, non so, Maria Rosa aveva avuto un bambolotto, tanto per dire. Negli anni 60 a Casale Monferrato la fabbrica dell'Eternit rappresenta una garanzia di occupazione e di sviluppo. È il fiore all'occhiello della città che dà lavoro a migliaia di persone. Lo stabilimento nasce nel 1906, 94.000 metri quadri di estensione, di cui 50.000 coperti. A fondare la fabbrica è un ingegnere italiano, Adolfo Mazza, che acquista la licenza da una società svizzera proprietaria del brevetto Eternit, creato nel 1901 dall'austriaco Ludwig Acek. La licenza riguarda la produzione di un composto nuovo a base di cemento, amianto e acqua che può fare la fortuna di una fabbrica e di una città. Nicola Pondrano, operaio all'Eternit di Casale, è tra i primi ad avere sospetti sulle morti di amianto nella fabbrica. Oggi è il presidente del Fondo Nazionale Vittime d'Amianto. Per anni Eternit ha rappresentato una speranza anche per lui. Eternit era la Fiat di Casale, ha avuto 2500 lavoratori, stiamo parlando di una città che ha meno di 40.000 abitanti. Casale la chiamavano la capitale del cemento, le grandi famiglie del cemento erano quasi tutte presenti a Casale, infatti la Etna, se si è ubicata qua, ci sarà qualche ragione, appunto l'acqua e le cave per fare il cemento. Quello che succedeva nell'azienda è che arrivavano i sacchi di amianto grezzo, cioè in polvere, e questi sacchi passavano in qualche modo per la città con la ferrovia, arrivavano nello stabilimento, venivano aperti dai lavoratori e venivano poi queste fibre fisicamente poste nelle macchine che lo impastavano, ecco, per intenderci, con il cemento. Al sabato pulivano i forni degli stabilimenti e noi uscivamo a osservare il fumo, la polvere che veniva fuori dalle ciminiere. Erano le voci di Marinaccio del registro mesoteliomi dell'INAIL e di Romana Blasotti Pavesi. Si chiama Ronzone il quartiere dove va ad abitare la famiglia di Mario e Romana, un quartiere sorto nei primi anni del Novecento, proprio a ridosso della fabbrica. È qui che vengono ad abitare la maggior parte degli operai dell'Eternit e le loro famiglie. Un quartiere sommerso dalla polvere, la polvere di amianto. Noi vedevamo i nostri mariti arrivare a casa con la tuta anziché blu, era bianca. Lo stipendio era molto buono, nel senso che venivano pagati i lavori disagiati o polverosi, e in più, associati all'indennità di turno, la paga veniva maggiorata anche al 30%. Il 30% di uno stipendio è una maggiorazione importante. Si conviveva con quella condizione di disagio che provocava, qua a Casale veniva definita la polvere nei polmoni, tradotta in asbestosi polmonare. La polvere ai polmoni dava diritto ad una rendita per asbestosi, quindi a una rendita economica, e o bene o male si tirava avanti. L'asbestosi è una malattia determinata sempre e solo dalla inalazione di fibre di asbesto, che produce una fibrosi polmonare, cioè una forma di indurimento di entrambi i polmoni che, non potendosi più espandere in maniera normale, incamerano sempre meno ossigeno fino a determinare insufficienza respiratoria grave. Era la voce di Daniela De Giovanni, oncologa all'ospedale Santo Spirito di Casale. Un male, l'asbestosi, comune a molti operai delle fabbriche italiane che lavorano l'amianto. Da Casale Monferrato a Cavagnolo a Rubiera fino a Bagnoli, il quartiere di Napoli dove sorge una delle più grandi aree industriali siderurgiche del sud Italia. La fabbrica Eternit qui arriva nel 1939 e si trova in una posizione strategica vicino al mare. All'inizio dà lavoro a 2.336 lavoratori e, così come a Casale Monferrato, rappresenta negli anni 60 una risposta occupazionale molto forte per l'intera area, comprese le zone limitrofe di Fuorigrotta, Soccavo e Pianura. Giuseppe Russo è un operaio dell'Eternit di Bagnoli, mentre Luisa Pastore è figlia di due ex operai. C'erano le macchine che sfilacciavano l'amianto e si portavano su alle camere per alimentare le macchine giù che dovevano fare i tubi. Tutto quell'amianto che stava bloccato si faceva polvere, proprio come, che devo dire, una cosa come le piume che volavano. Sono figlia di due operai dell'Eternit, difatti tutti e due si sono ammalati di asbestosi. Mamma, i medici le dicevano: signora, lei ha due mattoni sui polmoni, no, ha due polmoni, ha due mattoni. Infatti ha fatto una fine orrenda. Mamma lavorava nel reparto manufatti, per cui li modellava con le mani, senza guanti, con l'acqua, e modellava i gomiti, diciamo, dei tubi a curva. L'Eternit per loro era una fonte di vita, un qualcosa di fantastico che ti cambiava la vita. Un vero e proprio sogno dunque che si trasforma in un incubo, un dramma che si svela poco a poco nel corso del tempo. Negli anni 70 l'asbestosi è un male comune a molti lavoratori e in Italia è riconosciuta come malattia professionale già nel 1947. Sono molti gli operai abituati a convivere con questo male, ma il peggio deve ancora arrivare. Sentiamo Nicola Pondrano e Romana Blasotti. Sono gli anni 76. Mi accorgo che entrando, quindi varcando il cancello dello stabilimento, sul lato sinistro, in questa grande pila di marmo, ci sono sempre dei manifesti funebri. Osservo di anni 48, di anni 52, di anni 56. E la domanda mi nasce un po' spontanea. Dico, ma come? Ma si muore? Ma qua nessuno arriva alla pensione. Mio marito ha incominciato ad avere un dolore alla schiena. Anche dal medico pareva potesse essere un po' di artrosi, reumatismi, ok. Per Mario Pavesi non si tratta di un comune male alla schiena e non è l'asbestosi questa volta a provocargli nuovi sintomi. Pavesi ha un tumore ai polmoni, un tumore dal nome sconosciuto. Io mi ricordo di aver detto al nostro medico di famiglia: dottore, mio marito ha il mesotelioma. Lui stesso si è girato e mi ha detto: e che cos'è sto mesotelioma? Il mesotelioma è un tumore maligno che colpisce il mesotelio, una membrana che riveste parete toracica, polmoni, diaframma e pericardio. Un cancro raro che può estendersi ovunque. Quello che contraddistingue forse questo tipo di tumore e che lo rende particolarmente pieno di sofferenze è proprio il dolore. L'ultima notte è un brutto ricordo, nel senso che voleva l'ossigeno e lo buttava via perché gli dava fastidio, e poi lo rivoleva e poi lo buttava via. E lui in un certo momento ha alzato la mano per salutarmi e è entrato in coma. Sono state le 8 del mattino ed è mancato le 8 di sera dello stesso giorno, il 17 maggio dell'83. Non era arrivato a 61 anni. La caratteristica di Casale in qualche modo e che rende la storia tragica è stata che si è verificato a Casale una straordinaria anche contaminazione ambientale dovuta a numerosi fattori. Innanzitutto la posizione dell'azienda che in qualche modo dominava la città e inoltre per le condizioni di lavoro le polveri si sono diffuse nella città in maniera massiccia per tantissimi anni. L'amianto dunque a Casale era dappertutto, a contatto con tutti, e a morire infatti non sono solo gli operai dell'Eternit. Mix 24, la storia. Mia sorella si è ammalata anche lei, è mancata a 59 anni. Mia sorella non era mai stata dentro lo stabilimento. Bentornati a Mix 24. Anche Libera Blasotti, sorella di Romana, muore per un mesotelioma, lo stesso tipo di tumore che ha colpito anche il marito di Romana, Mario Pavesi. Queste morti, cui ne seguiranno altre fuori e dentro la fabbrica, allarmano i lavoratori dello stabilimento e nell'83 partono le prime indagini ambientali con una perizia dettagliata all'Istituto di Medicina del Lavoro di Pavia. Dimostra per la prima volta un significativo inquinamento dell'aria, con quantità più o meno grandi di polveri miste ad aliquote di fibre di amianto. Intanto anche il registro tumori di Torino segnala un primo allarme, ce lo racconta l'oncologo Daniela De Giovanni. Dall'epidemiologia dei tumori di Torino venne la segnalazione che a Casale c'era un'incidenza di mesoteliomi della pleura del peritoneo, che si configurava come una vera e propria epidemia di tumori. A morire sono soprattutto operai della fabbrica di Eternit, ma anche semplici cittadini. A capo dell'azienda in quegli anni ci sono l'industriale belga Louis de Cartier e lo svizzero Stefan Schmidaney, che ottiene nel 72 una grossa quota di controllo dell'Eternit in Italia. Ma i vertici della multinazionale potevano sapere quanto fosse pericoloso l'amianto? E che cosa sanno delle morti degli stabilimenti Eternit? Insomma, quanto sono consapevoli della pericolosità delle lavorazioni delle loro fabbriche? Sentiamo uno dei loro legali, Guido Carlo Alleva. Stefano Schmidaney sapeva del rischio amianto nella fabbrica italiana, nelle Eternit italiane, sapeva che c'erano dei morti. Intanto non si può dare una risposta a una domanda, mi scuserà, non si può dare una risposta a una domanda così, per così dire, lapidaria, perché stiamo parlando di una realtà industriale di enorme complessità rispetto alla quale l'Italia, l'attività in Italia, cioè il conglomerato italiano, è soltanto una delle decine di realtà industriali in giro per il mondo. Come uomo d'affari ho cercato di creare prosperità sociale ed economica e allo stesso tempo di proteggere e rigenerare l'ambiente. Stefan Schmidaney, per gestire il rischio amianto, istituisce già nel 1976 a Neuss, in Germania, un centro di ricerca, l'Asbest Institute, che si occupa proprio di tutte le problematiche ambientali all'interno dell'Eternit Italia. Uno dei punti del programma del congresso di Neuss riguarda gli investimenti in sicurezza ambientale. Sentiamo ancora i legali di Schmidaney, Astolfo Di Amato e Guido Carlo Alleva. Negli anni in cui Stefan Schmidaney ha avuto una posizione di rilievo, nessun profitto è partito dagli stabilimenti italiani verso la Svizzera, viceversa dalla Svizzera sono pervenuti 73 miliardi di lire da investire negli stabilimenti. Il discorso storico, la profondità storica riferita alla presa di consapevolezza di una realtà di patologia industriale, che si traduce in un grande problema di patologia sociale, di rischio sociale, non è mai un processo né breve né ad un giocatore solo, non è mai un processo limitato ad un player cattivo e tutti gli altri buoni che sono sottoposti. È proprio vero che il mondo della produzione ha come unico protagonista e quindi anche unico ipotetico responsabile l'industriale? Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen. It's a pleasure to... In Italia, ancora nel 1984 e nel 1985, c'erano circolari della pubblica amministrazione che imponevano l'uso dell'amianto per poter partecipare ad alcune gare pubbliche relative a lavori pubblici. Il che quindi significa che vi è stata un'intera collettività che ha condiviso l'utilità dell'uso dell'amianto. In termini di lettura della storia, per esempio, le autorità demandate dal sistema, dall'ordinamento giuridico, alla tutela della salute pubblica, ignoravano completamente. Gli organismi internazionali sulla sanità, il mondo scientifico, anche il mondo sindacale, sono davvero lontani nel 1975, 78, 74, 72, da una cognizione o da un inizio di presa di coscienza della cancerogenicità dell'amianto nei termini che sono emersi successivamente. Fin qui dunque la posizione degli avvocati di Stefan Schmidaney, che parlano naturalmente di responsabilità storiche e non processuali. Noi abbiamo provato a seguire anche altre piste, in particolare quelle che portano alla conoscenza della pericolosità dell'amianto da parte della comunità scientifica. Sentiamo Alessandro Marinaccio, responsabile del Registro Nazionale dei Mesoteliomi dell'INAIL, e Pietro Comba, direttore del reparto di epidemiologia dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma. Gli studi definitivi, quelli che hanno portato all'attenzione il problema con grande solidità scientifica, sono del decennio che va tra il 1960 e il 1970, negli Stati Uniti ma anche negli altri paesi. Anche sul nesso causale fra esposizione all'amianto e mesotelioma pleurico si raggiunge il consenso internazionale. Queste notizie vengono subito portate in Italia all'attenzione di tutti. C'è un fascicolo della rivista Tempo Medico che diffonde e queste che sono ormai conoscenze consolidate. Conoscenze che arrivano dagli Stati Uniti. Uno scienziato, Irvin Selikoff, mostra che l'esposizione all'amianto può causare una forma grave di cancro ai polmoni. Lo scienziato evidenzia che quanti vengono a contatto con l'amianto anche per meno di una settimana si ammalano fino a 30-40 anni dopo il contatto. La tesi di Selikoff viene ripresa anche dal supplemento domenicale del New York Times del 21 gennaio 1973. Nell'articolo Selikoff fa diretto riferimento alle malattie correlate all'amianto e alla lunga latenza del mesotelioma. Il tempo di latenza, cioè quell'intervallo che intercorre tra l'inalazione della fibra e la comparsa della malattia, può essere lunghissimo, può andare dai 20 fino ai 50 anni. E nel momento in cui si manifesta, quindi si manifesta con dei sintomi, nella stragrande maggioranza dei casi è un tumore già in una fase avanzata di malattia. È possibile ammalarsi di mesotelioma anche a fronte di un'esposizione non particolarmente prolungata e non particolarmente elevata, e cioè non esiste quella che si chiama dose soglia, cioè un livello di esposizione sotto il quale il rischio di malattia sia nullo. Tuttavia è sicuramente altrettanto consolidato che il rischio di ammalarsi evidentemente aumenta a seconda dell'intensità e della durata dell'esposizione. Un'informazione che è necessario fare: l'amianto non è un materiale radioattivo la cui sola vicinanza comporta un rischio per la salute, ma lavorare una lastra di cemento amianto, forarla, è un'attività pericolosa perché le fibre di amianto si liberano e le fibre di amianto nell'aria sono un grave rischio per la salute. Le fibre di amianto libere nell'aria possono provocare la malattia e la morte. A Casale Monferrato, a metà degli anni Ottanta, c'è un'incidenza delle malattie polmonari di 20 volte superiore alla media nazionale. Ma in fabbrica si continua a lavorare nonostante le vittime, nonostante gli scioperi dei lavoratori che chiedono migliori condizioni ambientali all'interno dello stabilimento. Ma i cambiamenti del mercato e gli investimenti per la sicurezza rendono la fabbrica di Casale sempre meno competitiva. Il 21 gennaio dell'85, su richiesta degli stessi vertici dell'azienda, l'Eternit di Casale viene sottoposta ad amministrazione controllata dal Tribunale di Genova. Di fatto è l'anticamera del fallimento. Nella prima metà degli anni 80 l'attività del cemento amianto si esaurisce in Italia. I costi e gli investimenti, i costi di sicurezza e gli investimenti avevano determinato dei costi di produzione nettamente più alti di quelli dei concorrenti e quindi la produzione della Eternit era fuori mercato. Dunque, come hanno spiegato gli avvocati, l'Eternit all'inizio degli anni Ottanta è a un passo dalla chiusura. E allora l'azienda inizia a parlare dell'utilizzo di una fibra alternativa. Mix 24, la storia. C'era chi diceva: se adesso facciamo chiudere lo stabilimento rischiamo di perdere un'attività importante alla vigilia di una produzione non più nociva. Allora io ho scritto a Smidain, ho deciso di prendere il toro per le corna, e quindi allora lei dica con chiarezza: la fibra alternativa c'è o non c'è? Perché se non c'è, non c'è futuro. Io non ho mai avuto alcuna risposta. E infatti questa fibra alternativa, di cui il sindaco di allora, Riccardo Coppo, chiedeva spiegazione ai vertici dell'azienda, non arriverà mai. Il 4 giugno dell'86 il gruppo Eternit Italia chiude definitivamente la fabbrica di Casale. Nell'87 il sindaco emette un'ordinanza, la prima in Europa, che sancisce il divieto con decorrenza immediata dell'impiego di tutti i manufatti in amianto. Ma solo nel 92 finalmente in Italia viene varata la legge che vieta la produzione e l'uso dell'amianto. E a Casale Monferrato, a 10 anni di distanza dalla chiusura della fabbrica, nel 96 comincia la bonifica della città, completata nel 2005. E proprio questi sono gli anni di maggior impegno per l'Associazione dei Familiari delle Vittime dell'Amianto e il Comitato Vertenza Amianto. Così la storia di Casale e dei suoi morti entra nelle aule di giustizia. Il primo procedimento si conclude con la prescrizione per 4 manager italiani, decretata dalla Cassazione. La svolta arriva nel 2004 dalla Procura di Torino. Il magistrato Raffaele Guariniello avvia l'indagine sullo stabilimento Eternit di Schmidane in Svizzera. E abbiamo cominciato ad acquisire dei documenti, come ad esempio lettere tra gli amministratori italiani e gli amministratori svizzeri. Trovammo un resoconto scritto a mano proprio, in cui si dava atto delle indicazioni che venivano date. È consigliabile, nei contatti con organizzazioni sindacali, mediche, statali italiane, nel campo degli standard di polverosità, rifarsi alla legislazione tedesca o a quella americana che è meno restrittiva. C'era il tentativo di non far arrivare messaggi apertamente chiari sulla cancerogenicità dell'amianto. Abbiamo messo in luce il passaggio dalla colpa al dolo. Pensare che c'era la possibilità di aver giustizia è stata una cosa molto importante. Per Romana Blasotti Pavesi l'avvio al processo rappresenta una grande speranza di giustizia. Aspetta questo momento da oltre 20 anni, dopo una lunga battaglia contro l'amianto che le ha portato via gli affetti più cari. Ma per Romana c'è ancora un prezzo da pagare, un prezzo molto alto. Pensavo che la mia famiglia avesse pagato a sufficienza per quanto riguarda il mesotelioma. Mio padre è morto nel 1983. Più tardi una carezza materna. E nel dicembre del 2003 mio cugino di 50 anni. Non bastava ancora. Maria Rosa, mia figlia, ha seppellito, diciamo, accompagnato suo cugino a dicembre, il 10 di dicembre, al cimitero, e a marzo del 2004 ha saputo di essere ammalata anche lei. Le solite lastre di routine. Era evidente anche a una profana come me quel polmone sinistro completamente bianco. È venuta qui a casa mia con suo fratello e suo figlio e mi hanno detto: mamma, siediti, ti devo dire una cosa. E io mi sono seduta e chissà cosa poteva dirmi. E mi ha detto: mamma, ho il mesotelioma anch'io. E io l'ho abbracciata e l'ho detto: io non ti lascerò andare via. Ma sapevo benissimo che non avrei potuto fare proprio niente. Voglio fare tutto quello che sarà possibile. Per mio figlio, per me, per chi sarà sfortunato come me. No, non mi vergogno. Voglio dirlo a chiunque. Sono solo indignata. Chissà, forse riuscirò a spuntarla. Il giorno del funerale ho pianto, mi sono veramente sfogata. Non ho potuto trattenermi. Poi ho perso le lacrime, non ho più saputo piangere. Scrive il presidente della Corte, Giuseppe Casalbore, nelle motivazioni depositate il 14 maggio 2012. Emerge tutta l'intensità del dolo degli imputati, perché sia De Cartier che Schmidaini hanno continuato e non si sono fermati, né hanno ritenuto di dover modificare radicalmente e strutturalmente la situazione. Ra- Raffaele Guariniello, procuratore a Torino, il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini ha detto al sindaco di Casale Monferrato che la sentenza della Cassazione sul caso Eternit poteva essere diversa, è vero? Beh, cioè, la nostra idea era che poteva essere diversa, poi però non è stata diversa. Quindi in che cosa poteva essere diversa? È stato adottato un concetto di disastro diverso da quello adottato nei precedenti gradi di giudizio e adottato anche dalla stessa Corte di Cassazione in sentenze, in particolare nella sentenza del 6 febbraio 2007 su Porto Marghera, cioè un disastro che non si consuma in un momento o sino a che c'è qualcuno che tiene una condotta che lo determina, ma che si consuma nel tempo. Come procura, avete annunciato la chiusura delle indagini di un nuovo processo per omicidio volontario, quest'ultimo istituito da voi, può avere più successo? È quello che speriamo. Su cosa si basa la vostra speranza? Ma, sotto che aspetto? Cioè, in che cosa? Del reato, perché dicono che in effetti alcuni vi hanno contestato che è lo stesso reato. No, un reato è l'omicidio, un altro è il disastro, sono due reati diversi. Il reato di omicidio sicuramente si consuma nel momento in cui avviene la morte della persona. Siccome ci sono morti anche del 2014, quindi il problema della prescrizione non si pone. Il procuratore generale Francesco Iacoviello ha detto che un giudice tra diritto e giustizia deve sempre scegliere il diritto. Lei è d'accordo? Sa, questo è un discorso di tipo filosofico in cui non mi riesce di entrare. Quello che la mia idea è che il diritto sia fatto per fare giustizia, perché questo è il nostro mestiere, poi dobbiamo rispondere alle richieste di giustizia che ci arrivano da tante parti del paese, quindi... Quindi non è d'accordo? No, ma non so perché mi vuol mettere in disaccordo, cioè sono tesi, impostazioni magari diverse. Diverse. No, perché il sindaco di Casale Monferrato dice parole pesanti, che il sostituto procuratore Iacoviello deve addirittura vergognarsi. No, io non... Per questo glielo chiedo. No, ma scusi, ma non sono domande che si fanno a un magistrato queste. Perché? Ma scusi, un magistrato mica si mette a fare considerazioni di ordine politico. Generale. No, però il procuratore generale ha detto queste parole e allora... Ma io le ho dato la risposta. Un'impostazione diversa. No, le ho detto, il diritto serve per fare giustizia e abbiamo una pressante richiesta di giustizia da parte della gente, delle vittime, delle familiari delle vittime. Un'ultimissima domanda, la prescrizione così com'è è un problema? Sicuramente è un problema e ha fatto molto bene il Presidente del Consiglio a sottolinearlo, perché nei processi noi dobbiamo arrivare a dire se è colpevole o non è colpevole l'imputato, ma non chiudere la vicenda con una sentenza di prescrizione del reato. Lei come la riformerebbe? Ma lì ci sono diverse ipotesi, diverse possibilità, ecco. Quindi, una cosa su cui sicuramente va riformata? A mio parere sì, perché delle due l'una, o la giustizia penale si mette a funzionare molto più celermente e velocemente e quindi e si danno tutte le risorse necessarie, oppure bisogna per forza incidere sui tempi di prescrizione. Grazie. Prego, prego. Mix 24.